Bene, allora direi che possiamo iniziare questa nostra interessantissima serata con due ospiti che ringrazio da subito, il professor Albertoni Giuseppe dell'Università di Trento e Andrea Bonoldi, sempre dell'Università di Trento, ma in realtà sono, posso dirlo, un meranese e un bolzanino, così per essere un po' campanilisti, prestati a Trento. Abbiamo iniziato un autunno veramente interessante grazie alla collaborazione sia con l'Università di Trento che con l'Università di Bolzano, realizzando due cicli che andranno avanti in contemporanea, e in particolare questo di questa sera è il ciclo Noi e le storie. Partiamo appunto dal Medioevo, torneremo indietro fino all'età della Grecia classica per poi riandare avanti ai giorni nostri. Insomma, faremo una traversata nella storia dell'Europa, insomma, nella storia occidentale, del pensiero occidentale e appunto considerando anche i luoghi comuni e così scoprendo delle cose da un altro punto di vista. Ma non voglio svelarvi troppo, semplicemente vi ricordo che il titolo di questa sera è Medioevo, studiare la storia superando i luoghi comuni. Poi invece il prossimo appuntamento sarà il 20 novembre con Maurizio Giangiulio, I Greci e Noi, e poi l'11 dicembre Il valore e il governo della moneta con Andrea Bonoldi, che è qui con noi questa sera già. Queste sono le tre conferenze che vi anticipo per quanto riguarda il ciclo Noi e le storie. Invece mercoledì avremo con noi avremo il gruppo di lettura che vi invito a frequentare, è un gruppo ristretto, piccolo diciamo, ma poi aperto a tutti. Dalle 17 in poi si chiama Localmente e riguarda la narrativa del territorio. Questa volta sarà il libro di Sara Poma che verrà letto e così commentato tra i partecipanti e le partecipanti. Il titolo è Il coraggio verrà. Diciamo che è un libro dedicato alle questioni di gender, transgender e parità di genere. Infine, l'ultimo appello che lascio è quello del 30 ottobre, lunedì alle 17.30, sempre diciamo un incontro legato alla storia moderna e contemporanea. Ci sarà il nuovo libro Bolzano scomparsa 14 con Ettore Frangipane. Ecco, quindi sarà una piacevole serata insieme anche a Mara Daroit. Ma torniamo ai nostri ospiti e quindi lascio subito la parola ai nostri due ospiti, al professor Albertoni e al professor Bonoldi, che ci racconteranno appunto il Medioevo in una chiave nuova e inusuale. Grazie. Grazie molte Valeria Trevisan per questa introduzione. Questo è un posto accogliente dove è sempre piacevole venire a raccontare qualcosa. E se penso a com'era la situazione quando io ero un giovane studente, un posto così mancava a Bolzano ed è stato costruito ed è veramente un'istituzione importante. Allora, il menù è già stato presentato da Valeria, che vi ha raccontato quali saranno gli appuntamenti di questo ciclo che abbiamo costruito, e non voglio veramente dilungarmi troppo in questa introduzione per lasciare lo spazio che merita il nostro ospite d'onore Giuseppe Albertoni. Però consentitemi solo di ricordarvi brevemente quali sono le ragioni fondamentali che ci hanno indotto a mettere in piedi questo ciclo. Da un lato c'è il bisogno sentito di promuovere un po' la collaborazione tra le istituzioni del territorio che si occupano di formazione, di ricerca e di cultura in senso ampio, con l'intento di creare una strategia che in realtà dovrebbe essere un obiettivo fondamentale di politiche culturali che siano degne di tal nome, no? Al fine di valorizzare un lavoro di ricerca, di divulgazione che c'è, che viene fatto da molti, ma che spesso non trova un'adeguata visibilità nel discorso pubblico. Forse è anche vero però che è un po' retorico e autoassolutorio accusare di questa mancanza le politiche culturali. Molte cose possono essere fatte da sole dagli operatori culturali, da chi si interessa di queste cose, da bibliotecari, da docenti, da ricercatrici, da persone interessate che possono proporre le cose dal basso senza che necessariamente, insomma, gli input debbano arrivare da chissà dove. Allora, se uno degli obiettivi di questo ciclo è dunque quello di far conoscere a un pubblico interessato alcune acquisizioni e strumenti di diffusione della conoscenza storica che sono stati prodotti con la collaborazione di un'importante università regionale come quella di Trento, ma sappiamo che anche nell'Università di Bolzano si fa ricerca storica ad alto livello con il centro di competenza per la storia regionale. Alla base di questa iniziativa c'è però anche dell'altro, ovvero l'idea che la storia offra degli spunti cruciali per comprendere come sia costruito in qualche modo il codice genetico del nostro presente. Quello vogliamo fare confrontandoci con appunto alcune importanti pubblicazioni recenti che non offrono soltanto una panoramica dello stato dell'arte della ricerca nei rispettivi ambiti, ma lo fanno anche in modo critico, riflettendo in qualche modo una sensibilità che per alcuni versi è tutta contemporanea e che dimostra come la storia possa offrirci degli spunti di riflessione sempre nuovi e importanti anche per leggere la nostra realtà attuale. 15 anni fa un collega, un docente di un ITN, che non è uno storico ma un esperto di letteratura e di letteratura medievale in particolare, ovvero Claudio Giunta, ha pubblicato un agile libretto che consiglio a tutti di leggere per la sua attualità, intitolato L'assedio del presente. Un assedio in cui siamo stretti tutti, no? Da notizie, emergenze, protagonisti che si susseguono rapidamente senza lasciarci il tempo di ragionare troppo e lasciandoci lì con la sgradevole sensazione che ci sfugga l'essenziale. In un frullatore in cui ci si butta dentro l'Ucraina, l'intelligenza artificiale, Gaza, le relazioni delle agenzie di rating e Gianbruno, dove tutto si mescola ad alta velocità, senza soluzioni di continuità e senza alcun tipo di gerarchia. Ogni argomento pare sul momento essere una questione di importanza vitale su cui esercitare le nostre valutazioni e spesso la nostra vera o presunta indignazione, ma poi ce ne dimentichiamo presto e passiamo rapidamente ad altro. E questo non ci consente forse di dotarci degli strumenti adeguati per indagare e comprendere le linee di faglia, i punti di svolta, le tendenze che sono veramente importanti e che condizionano il nostro presente e condizioneranno il nostro futuro. Ecco dunque che nel nostro piccolo ci soffermiamo invece a ragionare per quanto possibile criticamente su epoche e fenomeni storici, anche in relazione alla nostra percezione attuale e nella speranza di fornire qualche spunto che aiuti noi e soprattutto le nuove generazioni a contestualizzare adeguatamente le complesse dinamiche in cui ci troviamo a vivere. Ecco, anche in questo senso mi fa qui particolare piacere presentare Giuseppe Albertoni, che è un collega, un amico, insomma ci conosciamo da tanti anni, ordinario di storia medievale a Trento, e che ha alle spalle una carriera scientifica di assoluto livello. Mi limito qui, adesso non voglio cominciare a elencare quello che ha fatto perché sennò vi prenderei mezza presentazione. Vi elenco solo alcune delle monografie che ha scritto: 1996 Le terre del Vescovo, potere e società nel Tirolo medievale, 1998 L'Italia carolingia, 2003 Il feudalesimo in Italia, 2015 Vassalli, feudi, feudalesimo, nel 2020 il delizioso libretto L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore, e ultimo ma non meno importante il volume che viene presentato oggi, questa introduzione alla storia medievale che Giuseppe ha curato con Lavini e Lazzari, che rappresenta un tentativo, a mio modo di vedere molto ben riuscito, di proporre un nuovo manuale di storia medievale. E da qui voglio partire, e parto con la logica dell'economista, no? Beh, io sono un economista di formazione, uno storico economico, e la prima cosa che si domanda sempre un economista quando vede un prodotto nuovo sul mercato è: ma perché c'è questo prodotto? Ecco, perché nel 2015, Giuseppe, avete deciso che, no, probabilmente avete cominciato prima, è uscito nel 2015 ma ci avete lavorato prima, perché avete deciso che fosse il momento di fare uscire un nuovo manuale sul Medioevo, e qual è, nella vostra intenzione, il valore aggiunto, no, di questo lavoro? Grazie, si sente? Sì. Prima di risponderti vorrei ringraziare te, ringraziare Valeria Trevisan per l'invito e per la possibilità di dialogare con te e con il pubblico oggi. Quindi anch'io penso che sia un'occasione veramente importante per riuscire a porsi in dialogo con un ambiente non strettamente accademico, cosa sempre molto importante. Allora, perché? Ma come spesso succede, c'è stata una sollecitazione esterna. Quindi spesso sono le case editrici che partono con una necessità. In questo caso la necessità era quella di elaborare un nuovo manuale di storia medievale che venisse incontro alle esigenze degli studenti di oggi, quindi con studenti che si sono formati in un ben preciso contesto e che vivono anche in una società molto diversa rispetto a quella nella quale sono stati elaborati in passato dei manuali che a lungo sono stati, possiamo dire, dominanti anche all'interno della didattica universitaria. Quindi l'esigenza iniziale è stata questa e quindi a partire da questa sollecitazione che ci è giunta abbiamo pensato di riflettere su quali potessero essere gli aspetti caratterizzanti per un nuovo manuale in modo tale che si distinguesse dagli altri, perché in realtà anche la concorrenza, diciamo, se vogliamo parlare anche in termini economici, è molto molto molto forte, e ne avremo modo di parlare ulteriormente anche nel corso del nostro dialogo, ma possiamo dire il punto di partenza è stato quello di ricostruire certo le fasi centrali della storia medievale, ma sempre in una sorta di gioco di specchi, cioè sempre con una visione anche alla storia contemporanea, al momento che stiamo vivendo, e soprattutto cercando di far comprendere la stessa artificiosità del concetto di Medioevo, perché dobbiamo sempre ricordarci che il concetto di Medioevo è un concetto moderno, totalmente estraneo alle persone che vissero nel mondo che noi definiamo come mondo medievale. E quindi la prima operazione che abbiamo cercato di fare è quella di rendere consapevoli coloro che prenderanno in mano questo libro di questa grande differenza tra il modo in cui noi oggi concepiamo il passato e anche periodizziamo il passato e il modo in cui le persone che hanno vissuto in un periodo storico particolarmente ampio come quello che noi definiamo come Medioevo, cioè 1000 anni, hanno avuto di se stessi, del loro posto nella storia, del loro posto nella vicenda umana. Ecco. Questa cosa voi l'avete fatta adottando una scelta abbastanza particolare, perché quando si fa un manuale solitamente gli approcci possibili sono due: o si decide di fare di mettere in piedi una struttura tematica per temi, per argomenti, oppure una struttura tradizionalmente cronologica. In questo manuale ci sono entrambe le cose, insomma, e quindi sarebbe interessante capire perché avete deciso di organizzarlo in questo modo. Bah, diciamo, anche in questo caso il modello è stato proposto dalla casa editrice. Questo manuale è uscito in una serie di manuali intitolati Introduzione a Storia Medievale, Moderna, Contemporanea, che hanno tutti la medesima struttura. Cioè sono divisi in due sezioni. La prima sezione è intitolata I caratteri, in questo caso, della storia medievale, e la seconda sezione, che invece possiamo dire riprende un po' più una struttura tradizionale, è intitolata Cesura e tornanti. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è stato quello di sviluppare all'interno di questa struttura un modello che appunto potesse permettere di entrare gradatamente nel mondo, nella società medievale, con una consapevolezza di quali erano alcuni elementi centrali di organizzazione di questa società, evitando anacronismi, perché il grosso problema nello studio del passato e in particolare di un periodo come il Medioevo, su cui gravano mille sia pregiudizi sia elementi immaginari, è quello di evitare l'anacronismo e di cercare di capire, come dicevo prima, come le persone di questo lungo periodo storico, vivevano, concepivano se stessi, avevano rapporti fra di loro, e dunque abbiamo poi cercato, soprattutto nella prima parte, di sviluppare tematiche che raramente si trovano all'interno dei manuali, partendo proprio dal concetto di spazio, tempo e periodizzazione, e passando poi a riflettere sulla tipologia delle fonti, cioè come noi abbiamo accesso a questa fase storica. Quindi ricordarci sempre che abbiamo il filtro delle fonti, che sono fonti scritte o fonti materiali, perché citare i grandi, ricordo sempre una frase di Marc Bloch, il grandissimo medievista del primo Novecento, morto, ucciso dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Marc Bloch scrisse in un suo libro che lo storico non è mai un uomo libero. E non è mai un uomo libero perché è condizionato da quello che la storia ha trasmesso di sé, e quindi dalle fonti, dalla tipologia di fonti. Quindi è molto molto importante sapere innanzitutto che esiste questo filtro e che è attraverso questo filtro che noi percepiamo un passato come quello medievale. E poi, dopo aver così progettato questo aspetto, abbiamo pensato che possa essere utile poi soffermarsi su alcuni aspetti specifici che spesso non vengono trattati nei manuali, su cui poi magari ci possiamo anche soffermarci dopo, come per esempio la storia di genere. C'è stata una collega di Bologna, Tiziana Lazzari, che secondo me ha scritto uno dei capitoli più belli del libro, quello intitolato Uomini e donne, parentele e affinità, che aiuta a capire molto delle società medievali, proprio entrando, possiamo dire, da una porta, possiamo dire, privata, perché è da lì che poi si creano i rapporti tra le persone, e a partire da questi rapporti poi si creano anche i legami, le strutture politiche che spesso in età medievale sono strettamente collegate alle famiglie e alla loro organizzazione. Sì, tu hai citato questa questione delle fonti, che per gli storici è sempre, sempre importante. Infatti anche mia moglie e le mie figlie mi prendono in giro e dicono: ah, tu parli sempre delle fonti, no? Quando c'è qualcosa è sempre una questione di fonti. Però uno degli aspetti più interessanti, trovo anche più stimolanti, insomma, della ricerca in ambito medievale, è il fatto che se il corpus delle fonti scritte è più o meno conosciuto, spremuto, indagato, insomma, con l'abilità che sapete mettere in campo voi storici medievali, c'è in realtà un ambito del tutto aperto, che è quello delle fonti materiali, no? Per cui negegli ultimi decenni, insomma, l'archeologia medievale ha fatto grandi passi avanti e ha consentito di confermare, in alcuni casi anche smentire, delle evidenze che la storiografia aveva messo in luce in precedenza. Ecco, mi sembra interessante, no, questa prospettiva, no? Puoi dirci qualcosa? Sì, sì, proprio per questo abbiamo deciso di dedicare il secondo e il terzo capitolo del manuale alle fonti scritte, quindi quello che abbiamo definito come le voci del Medioevo, e poi le fonti materiali, abbiamo intitolato il capitolo Far parlare gli oggetti. È perché noi siamo di fronte a questa duplicità. Da un lato abbiamo le voci, le voci che ci sono pervenute, che sono le voci di chi ha scritto, chi ha redatto, chi ha compilato i testi che ci sono giunti. Voci che sono quasi sempre voci filtrate da uomini, da maschi, da ecclesiastici, con tutto quello che ne consegue. E poi sono anche, possiamo dire, voci che sono state filtrate dalla capacità nel tempo di conservarle. Per cui, appunto, di nuovo noi abbiamo per esempio gli enti ecclesiastici che sono riusciti a conservare molto della documentazione che li riguardava, mentre abbiamo pochissimo per quello che riguarda i laici, ma non soltanto le persone comuni, anche per quello che riguarda dei sovrani, la cui documentazione quasi sempre è filtrata attraverso la documentazione ecclesiastica. E dall'altro lato noi abbiamo l'archeologia, che ci permette di entrare in mondi non sempre presenti all'interno delle fonti scritte. perché sì, banalmente noi vogliamo sapere come mangiava una persona in una determinata epoca storica. Tramite le fonti scritte lo possiamo fare in maniera molto indiretta, a meno che non abbiamo la fortuna di trovare qualche descrizione particolare. Tramite le fonti materiali possiamo accedere a tutta una serie di dati che dalle fonti scritte non emergono. Quindi uno degli aspetti molto importanti della ricerca degli ultimi decenni è stata quella di un dialogo sempre più serrato tra storici della fonte scritta e storici della fonte materiale, perché in fondo sempre storici siamo, anche se ci si definisce storici e archeologi. E questo penso anche sia un aspetto importante del libro, che abbiamo cercato di mettere in risalto in questi due capitoli introduttivi, e che poi abbiamo cercato di far emergere man mano nella nostra narrazione laddove ci sembrava importante farlo. Sì, e penso che il Medioevo, come dicevi tu anche, è una delle epoche, è probabilmente, anzi sicuramente l'epoca storica su cui è stato ragionato di più, no? E oggi sappiamo che una delle parole d'ordine nel dibattito culturale decostruzione, no? Decostruiamo i concetti, proviamo a vederli in una luce nuova. Penso che intorno al Medioevo ci sia stato il maggiore esercizio di decostruzione possibile, al punto insomma che il dibattito intorno al Medioevo è un po' pirandelliano, ha portato a un Medioevo, nessun Medioevo, 100.000 Medioevi diversi, e questo ha anche a che fare con, se vogliamo, anche il successo che determinate idee di Medioevo hanno avuto nel dibattito pubblico, nella cultura, anche nella cultura popolare, se vediamo. Pensiamo all'impatto di un libro come Il nome della rosa, no? Sull'immaginario collettivo, ma anche a il Medioevo immaginario che c'è nella cultura dei libri fantasy o dei film fantasy, insomma, che seguono i nostri ragazzi. Allora, questo successo ha portato, per esempio, nel 1996 ha un grandissimo medievista, Horst Forman, che ha insegnato a Göttingen, a Tübingen e a Regensburg, e che era presidente dei Monumenta Germania Historica, quindi la massima istituzione, insomma, di edizione delle fonti tedesche, poi presidente anche della Bayerische Akademie der Wissenschaften, a scrivere un libro che si chiamava Überall ist Mittelalter, ovunque è Medioevo. No? E noi sappiamo che c'è stato questo revival, anche un po' kitsch, insomma, no? Di cavalcate medievali un po' dappertutto, con ricostruzioni abbastanza fantasiose, che ovviamente possono fare piacere, ma dall'altro, insomma, fanno anche sì che si consolidasse una certa immagine distorta, no? Del Medioevo. Quindi il Medioevo pop va bene, però dal punto di vista dello storico, oppure che ha anche qualche problema, insomma, mi piacerebbe capire come vi siete misurati voi con questa dimensione. Certo, il problema di fondo è che il Medioevo, potremmo dire, non è una realtà ma è un'idea. E quindi è un concetto che viene elaborato a partire dall'età umanistica, in contrasto con i tempi in cui si stava vivendo, creando una ricostruzione in chiave polemica, che si rispecchia nello stesso nome che fu dato a questa epoca. Quindi un'età di mezzo tra la grandezza dell'antichità e la cosiddetta rinascita della cultura che avvenne in età umanistica. Quindi questo periodo storico nasce come un'idea, come un concetto artificioso per molti aspetti, che proietta dei giudizi di valore. E noi sappiamo che questi giudizi di valore rimangono ancora oggi un giudizio di valore particolarmente negativo, tant'è vero che quando ai telegiornali si vuole definire negativamente una realtà, la si definisce come medievale. Negli ambiti, possiamo dire, più svariati, e spesso anche usando questo stereotipo negativo su temi per i quali magari l'età medievale avrebbe molto da insegnarci, invece. E quindi il problema di base è questo. E poi noi sappiamo che a partire dall'età dell'umanesimo, poi dall'illuminismo e poi dal romanticismo, di volta in volta attorno a questo periodo, a questo concetto, sono state elaborate delle immagini che sono delle immagini che rispecchiano più i tempi in cui furono elaborate che l'effettivo periodo storico. Questo fa sì che noi abbiamo questa sovrapposizione di immagini che poi confluiscono anche nella cultura popolare e che si frappongono tra quello che noi vediamo nelle fonti e quello che molto spesso chi non studia le fonti pensa che si possa trovare. Quindi questo è un po' uno dei problemi principali che ha da affrontare sempre un medievista. E naturalmente molti aspetti che poi sono stati rielaborati anche dalla cultura popolare hanno un loro fondamento in determinati testi, in determinati contesti anche, però ecco, l'importante è cercare sempre di ricostruirli. Quindi il Medioevo nasce proprio attraverso una costruzione di un concetto e quindi per forza di cose deve essere anche sottoposto a costante decostruzioni. Poi per quello che riguarda il famoso libro di Horst Forman, Über das Mittelalter, chiaramente sì, il Medioevo in realtà è ovunque, perché continui sono i richiami al Medioevo, più o meno fatti a proposito, e anche possiamo dire siamo di fronte a una presenza che emerge in tanti contesti, dal contesto storico artistico, quello storico politico, tante istituzioni, perché appunto al di là dello stereotipo negativo il Medioevo è stato in realtà, se vogliamo definirlo, un periodo laboratorio in cui sono stati elaborati poi modelli di vita sociale, modelli politici che si sono sviluppati e che ancora oggi per molti aspetti caratterizzano la nostra vita comune. Pensiamo solamente per esempio al comune. Quindi ovunque noi abbiamo un'organizzazione comunale, l'organizzazione comunale è una invenzione del Medioevo, quindi per dire come ce lo troviamo tra i piedi ovunque. Il compito dello storico è proprio quello di cercare di distinguere quello che noi definiamo medievalismo da quello che è poi la effettiva ricerca sulla storia medievale. Chiaro che in questo contesto c'è anche chi in maniera molto radicale per esempio propone di non usare più il termine medioevo proprio per evitare qualsiasi tipo di equivoco, però noi sappiamo che non si può fare una politica di eliminazione delle parole e quindi cercare di far capire il loro significato. Ecco, sì, ma proprio su questo, no? Perché poi appunto sulla sensatezza o meno del termine medioevo si è discusso molto. Noi in ambito medievale c'è una storiografia in perenne revisione. Se prendiamo per esempio una collana come The New Middle Age di Springer, che è una collana scientifica insomma molto prestigiosa, gente, ci troviamo veramente di tutto, ci troviamo il medioevo postcoloniale o l'amore queer nel medioevo, insomma veramente un approccio che da punti di vista inaspettati su questo periodo. È un periodo che dura 1000 anni, quindi un periodo in cui succede di tutto. Ma allora perché continuiamo a parlare ancora di Medioevo se è così problematico questo concetto? Perché voi vi definite ancora medievisti? Ma diciamo più per possiamo dire forse suddivisioni accademiche e poi per consolidati quadri culturali, per cui noi sappiamo quanto questi quadri culturali condizionino la nostra vita, la nostra percezione del passato, e quindi è pressoché possiamo dire impossibile decostruirli totalmente. E sì, non sono neanche possiamo convivere molto bene con questi concetti sapendo qual è la loro natura. Certo, il concetto di Medioevo, rispetto anche a quanto dicevi ora, ha un altro elemento problematico, cioè che il concetto di Medioevo nasce in rapporto alla storia europea, perché questa lunga parentesi, che era stata definita come una parentesi negativa, era stata elaborata dagli umanisti pensando alla storia d'Europa. Ora che confini della ricerca storica giustamente si sono aperti a un orizzonte globale, chiaramente vi è anche una forte contestazione del concetto di Medioevo che viene da storici non europei e che vede nel concetto di Medioevo un concetto in qualche maniera quasi colonialista, alcuni lo definiscono anche, che impone una visione anche della periodizzazione storica a partire solamente dalla storia europea. Naturalmente questo pone un problema reale, per questo anche il nostro manuale, se non lo confrontiamo con un manuale di storia moderna, non ha quella apertura di storia globale, perché diciamo è estremamente difficile proporla proprio per il modo in cui è nato il concetto di Medioevo ed è stato costituito a partire dalla storia europea. E naturalmente poi si pongono anche tutti i problemi di una forte disparità della trasmissione della memoria scritta tra la cultura europea e altre culture, che rende molto molto difficile costruire una storia, possiamo dire, medievale in senso globale. Naturalmente ci sono tantissimi tentativi, alcuni anche molto ben riusciti, però dipende con cosa, con quali realtà, e dunque c'è anche questo elemento. Quindi c'è stato un Medioevo europeo, e non c'è stato un Medioevo arabo, non c'è stato un Medioevo cinese, almeno non nella concezione, insomma, che diamo noi, no, al termine. Quindi è un problema ovviamente di diversità delle manifestazioni nello spazio. C'è anche legato al Medioevo un classico problema, che è quello della cronologia. No, la cronologia, come abbiamo imparato dalla scuola elementare in poi, del Medioevo è quella che va dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino alla scoperta dell'America. Anche intorno a questi limiti cronologici, insomma, si è ragionato molto. Quali sono i limiti cronologici del Medioevo? Siamo di fronte di nuovo allo stesso argomento, cioè dipende dalle tradizioni, possiamo dire culturali, dipende dal contesto in cui ci si inserisce. Tradizione che fa iniziare il Medioevo col 476, la fa finire col 1492, è una tradizione molto forte in ambito italiano, molto meno forte in altri contesti culturali. È naturalmente una ricostruzione su elementi cronologici mal posta, perché pone da un lato un termine di un evento politico con un evento invece che possiamo definire storico, economico, di apertura degli orizzonti, eccetera. Naturalmente già implica questo giudizio di valore, perché prende il 476, quindi la deposizione di Romolo Augustolo, i cattivi barbari che rovinano il mondo romano, e poi Cristoforo Colombo che parte verso le Americhe, e quindi il mondo si apre, si torna ad un'apertura. Quindi sono due date assolutamente non neutrali che furono prese per contribuire a questa immagine estremamente negativa di questo periodo. Noi oggi sappiamo che la deposizione di Romolo Augustolo è un episodio all'interno di un percorso più ampio. Sappiamo uno degli esiti più importanti delle ricerche che noi abbiamo cercato di mettere in risalto anche nel nostro manuale degli ultimi decenni, che riguardano il periodo cosiddetto tra tardo antico e alto medioevo, è costituito proprio dalle continue interazioni politiche e culturali tra il mondo romano e il mondo barbarico, il cosiddetto mondo barbarico. Dobbiamo, prima dicevo la diversità della percezione cronologica, ecco, ricordiamoci che chi viveva in età medievale riteneva di vivere in età romana e riteneva di vivere nell'ultima fase della storia dell'Impero Romano. Quindi nessuno pensava di vivere in un'età di mezzo, ma tutti pensavano di vivere in una fase finale di un periodo glorioso, che era il periodo del imperiale romano, tant'è vero che quando Carlo Magno fu incoronato nel Natale dell'Ottocento, assunse il titolo di imperatore romano, e tutti gli imperatori d'età medievale hanno il titolo di imperatore romano e richiamano nella loro simbologia politica sempre la simbologia politica imperiale romana. Quindi la percezione del tempo in età medievale è quella di vivere nell'ultima fase dell'impero romano, con poi, a seconda dei casi, visioni messianiche che si sovrappongono a questa visione. Quindi, naturalmente in questo contesto noi ci troviamo in un contesto che, per il quale le date che abbiamo detto prima non hanno una particolare rilevanza. Noi nel nostro manuale, nella seconda parte, sempre seguendo un po' il modello che ci è stato proposto dal nostro editore, abbiamo scelto per ogni capitolo una data chiave. Una data chiave non per dare importanza all'evento in quanto tale, ma un evento che però richiama anche un cambio strutturale. E allora noi, come data ipotetica d'inizio dell'immedioevo, abbiamo scelto il 380. Abbiamo scelto il 380, cioè quando il cristianesimo diventa la religione, diciamo così, di Stato dell'impero romano. Ecco, lì cambiano profondamente le cose, perché la storia romana si incontra con il cristianesimo e il cristianesimo inizia a giocare un ruolo politico all'interno della società romana. Ecco, lì noi abbiamo visto un vero cambio che ha portato poi a una nuova forma di percezione della storia, in cui la storia romana e la storia del cristianesimo confluiscono e si incrociano. Come data finale abbiamo tenuto il 1492, però l'abbiamo tenuto ricordando che nel 1492 accaddero molte cose, quindi non abbiamo soltanto Colombo che parte, abbiamo anche la fine della presenza musulmana in Spagna, abbiamo anche uno dei primi episodi molto tragici che riguardano gli ebrei in Europa. Quindi siamo di fronte di nuovo, secondo noi, un cambiamento che altera profondamente gli equilibri politici interni e la modalità di percepirsi nella storia. Si possono proporre molte altre date, molte altre tradizioni, ne propongono le altre, diciamo. L'importante è la coerenza nelle date che si scelgono, come viene detto anche nel saggio introduttivo di Gigi Provero, cioè se noi vogliamo scegliere una data che abbia un significato politico per l'inizio, dobbiamo sceglierne una anche per la fine. Se vogliamo privilegiare l'aspetto economico, naturalmente forse avremmo una cronologia diversa, dove potremmo cambiare un po' con questi punti di riferimento, spostando più avanti l'inizio di una nuova fase storica e anticipando invece la fine rispetto di un secolo, rispetto a quelle che abbiamo proposto invece più da una visione storico-politica. No, ma come dicevi tu, 1492 è un anno jolly, perché anno si presta jolly, bene, perché, no? Quindi, sì. Quindi si può sfruttare. Sì. Ecco. No, una tra le tante proposte che c'erano di periodizzazione, una è quella legata alla peste nera, in realtà, no? Peste nera, quindi 1347-48, questo agente patogeno arriva dall'Asia centrale attraverso Caffa, il Mar Nero, e poi con le navi genovesi arriva in Europa e fa il disastro che conosciamo. Insomma, anche recentemente la peste nera è stata vista veramente come un momento di svolta, no? Nella società europea, perché ha cambiato equilibri non soltanto con l'impatto biologico e demografico che ha avuto, ma anche equilibri dal punto di vista delle gerarchie sociali, no? Qualcuno vede come l'origine della società borghese, se vogliamo usare questo termine un po' marxiano, no? Per spiegare questa cosa. Ecco, qual è stato nella vostra analisi il ruolo appunto della peste nera e di quello che ne è conseguito? Sì, come dicevo, per la periodizzazione abbiamo tenuto conto soprattutto trasformazioni di, chiamiamole, strutture politiche, se vogliamo usare un modo così un po' più in auge fino a qualche anno fa. Per quello che riguarda la peste nera, sicuramente ha avuto un ruolo molto importante. Abbiamo dedicato un capitolo scritto da Simone Collavini, che ha cercato di mettere in risalto appunto il ruolo della peste nera all'interno delle dinamiche economiche. Difatti il capitolo si intitola Economia e società nel tardo medioevo. Proprio per quanto diceva adesso anche Andrea, noi abbiamo vissuto vissuto una pandemia, quindi sappiamo quanto possa coinvolgere la vita di tutti noi a tutti i livelli. La peste nera chiaramente ha avuto un impatto fortissimo sull'organizzazione economica, sull'organizzazione sociale, ha creato una situazione che paradossalmente è stata contemporaneamente sia di crisi che rinascita, perché, come viene messo risalto anche nel capitolo, la forte mortalità che ha colpito anche, possiamo dire, soprattutto i ceti urbani, perché era l'ambito dove la malattia si diffondeva con più facilità. Ricordiamoci che la malattia si diffonde, è un bacillo che si diffonde attraverso il morso di pulci che dai ratti passano alle persone. Età medievale, ma come tutte le età premoderne, è un'età in cui la convivenza tra uomo e ratto è abbastanza normale, così come anche con la convivenza con le pulci, quindi di per sé non era questo un elemento che creasse problemi, e quindi proprio per questo anche non si era in grado di individuare la causa reale. Ma diciamo l'impatto fu molto forte, un impatto che da un lato, per quello che riguarda i ceti eminenti, portò ad una possiamo dire razionalizzazione economica, riducendo il numero di persone che disponevano di grandi patrimoni, e questo ha reso possibile poi grossi investimenti che stanno alla base poi del rinascimento, di tutto quanto è avvenuto. Dall'altro lato ha dato anche più forza, oggi diremmo forza contrattuale, ai lavoratori, perché il numero di lavoratori era diminuito, quindi potevano in qualche maniera farsi valere, però con una serie di rivolte spesso anche concluse con durissime repressioni, quindi con una dialettica politica non semplice. Ecco, sicuramente il XIV secolo segna l'avvio di una nuova fase, la fine di una lunga fase da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale, e in parte anche da un punto di vista politico, perché non dimentichiamo che in questo contesto avvengono altre grandi trasformazioni. Abbiamo il papato che per 70 anni si trasferisce da Roma ad Avignone con tutto quello che ne consegue, e l'impero, quell'impero che abbiamo visto tornare in Europa con Carlo Magno, che entra in piena crisi, e proprio a causa del trasferimento del papato ad Avignone assume un connotato sempre più tra virgolette tedesco, perché ricordiamoci che dall'età di Carlo Magno in poi si diventa imperatore solo se si può essere incoronati dal papa. Siamo di fronte a un impero romano che non ha mai Roma al suo interno, quindi questo è un altro dei paradossi che si vengono a creare, ma in cui Roma è importante perché a Roma c'è il coronator, cioè colui che può coronare. E dunque in questo contesto per diventare imperatore bisogna sempre essere incoronati da un papa, e quando il papa diventa, possiamo dire, si trasferisce in Francia e diventa una sorta di possiamo dire autorità controllata dal re di Francia, chiaramente un imperatore non può andare a farsi incoronare da chi è protetto dal suo massimo nemico. Quindi ecco, anche la carica imperiale si sgancia dall'incoronazione imperiale, diventa una carica ristretta ai grandi del Regno di Germania, e quindi abbiamo questi profondi mutamenti che fanno sì che effettivamente, sotto molti aspetti, il XIV secolo sia una vera e propria cesura. Sì, questa delle strutture politiche chiaramente ha una dimensione importante, dove poi nel Medioevo troviamo le radici, l'hai detto tu, dei comuni, di una partecipazione diversa dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, e anche quelle degli stati nazionali, no? Con tutte le conseguenze che questa cosa poi ha avuto in età moderna. Ma forse uno degli aspetti che ho trovato più, da non medievista, da non esperto, più interessanti nel volume, oltre a quelli economici ovviamente, ma questa deformazione professionale, sono quelli relativi proprio alla storia di genere, no? Che è una prospettiva interessante. Allora, questa donna medievale rappresentata, secondo dei casi, come strega, come santa, come dama con l'unicorno, insomma, no? Com'era la donna del Medioevo? Che vita faceva? Che ruolo È effettivamente giusto questa idea, appunto, che quando si parla di una posizione subordinata della donna si utilizzi sempre il termine medievale per indicarla? Ecco, direi subito no. Quindi, ecco, qui la risposta, però dobbiamo argomentare, non basta dire di no. Dobbiamo ricordarci in primo luogo che per quello che riguarda la condizione della donna non siamo mai di fronte a un percorso lineare che passa dal peggio al meglio, ma abbiamo tutta una serie di onde, se così possiamo dire. Per cui, per quello che riguarda il periodo alto medievale, dobbiamo distinguere il periodo alto medievale da quello del pieno del basso medioevo, quindi diciamo periodo prima dell'XI-XII secolo da quello successivo. La condizione della donna, possiamo dire, naturalmente noi per il filtro che abbiamo a causa delle nostre fonti possiamo parlare solo delle donne di ceto sociale alto, perché le altre compaiono come nomi, ma purtroppo non possiamo dire nulla della loro situazione. Per quello che riguarda le donne di ceto sociale alto, il loro ambito d'azione, sia politica che economica, e anche l'ambito nella vita quotidiana, era sicuramente, possiamo dire, più ampio in età alto medievale. Età alto medievale siamo in una fase in cui le strutture familiari non sono ancora delle strutture familiari che procedono attraverso solamente la parentela di ramo maschile, ma sono strutture che danno importanza alla linea maschile, alla linea femminile, a seconda della rilevanza possiamo dire, degli antenati. Pensiamo, diciamo, quando noi vediamo gli alberi genealogici che vengono fatti delle grandi famiglie dell'alto medioevo, per esempio anche per i Carolingi, sono sempre delle ricostruzioni che non rispecchiano la percezione che noi troviamo all'interno delle fonti. Per un esempio, se noi guardiamo ad esempio nel mondo longobardo, leggi longobardi del dito di Rotari del 643, prevede una suddivisione paritaria dell'eredità tra maschi e femmine, senza fare nessun tipo di distinzione, e senza fare nessun tipo di distinzione tra primogenito ed altri figli. Il principio di primogenitura viene ad affermarsi solamente a partire dall'XI secolo in poi. Prima abbiamo una situazione molto più fluida, che poteva dare vita anche a molti conflitti, in cui di volta in volta veniva deciso quale poteva essere il figlio a cui assegnare la parte maggiore del proprio patrimonio, e in questo contesto anche le figlie potevano giocare un ruolo rilevante. Ricordiamoci che tra il resto in età alto medievale, quando una donna si sposava, riceveva sia la dote paterna, quindi i beni che erano in genere beni fondiari consistenti, ma doveva ricevere anche quello che viene chiamato il dotario, e cioè dei beni altrettanto consistenti da parte del marito. I beni del dotario erano beni di cui la donna poteva disporre autonomamente, quindi aveva una base economica autonoma che la rendeva, possiamo dire, le dava un margine di libertà relativamente ampio, molto più ampio che in età più vicine a noi. E spesso il problema del dotario emergeva poi quando la donna rimaneva vedova. Ricordiamoci, la vedovanza naturalmente è il momento più pericoloso per ogni donna. Certo, ogni donna nell'età alto medievale formalmente era sottoposta al mundio del marito, cioè un'autorità che era contemporaneamente un'autorità e una protezione. Rimasta vedova, se non aveva altri parenti maschi, finiva sotto il mundio regio, che naturalmente era più ipotetico che reale. Proprio i beni che facevano parte del dotario erano beni di cui poteva disporre solo lei, ma naturalmente spesso poteva esserci conflitti generazionali con i figli che ambivano ad avere i propri beni, e questo portava molto spesso a donazioni. Noi, quello che emerge, un aspetto che viene messo in risalto molto bene anche nel saggio di Tiziana Lazzari, quello che emerge nell'età alto medievale non è tanto un conflitto maschio-femmina, ma è più un conflitto generazionale genitori-figli. in cui i genitori cercano di porre al riparo il loro patrimonio dai figli e lo fanno donandolo ai monasteri. Lo donano ai monasteri e se lo fanno restituire in usufrutto. In questo modo lo mettono, possiamo dire, al sicuro. E naturalmente per i figli il fatto che i genitori facessero queste donazioni, che poi vengono configurate come donazioni pie, cioè donazioni per la salvezza della propria anima, era un grosso danno economico, perché era una parte di quota ereditaria che veniva sottratta loro. Ma questo serviva soprattutto alle donne per riuscire a avere poi disponibilità del loro dotario senza che correre il rischio che qualcuno glielo potesse sottrarre. Questo è solo uno dei tanti esempi che si potrebbe fare per far capire come non dobbiamo usare dei cliché semplicistici, perché l'ambito d'azione delle donne poteva essere molto più ampio di quanto pensiamo. Ciò non significa naturalmente che non ci fossero anche dei casi contrari a seconda delle fasi. La condizione delle donne peggiora sicuramente dal XII secolo in poi, quando si impone, per questioni sempre di gestione del patrimonio, un sistema basato sul maggiorascato e sulla discendenza maschile, che porta gradualmente ad una riduzione dello spazio d'azione femminile. Sì, ovviamente questo è un aspetto, come dicevi tu, che riguarda i ceti privilegiati, sì. No? Sul resto facciamo molta più fatica a sapere come stessero le cose. Ma scusami, posso dire sì. Soltanto una cosa, magari resto noi, quello che possiamo sapere ci deriva soprattutto da, per esempio, dalle leggi, laddove per esempio si parla di cosa sarebbe successo qualora un uomo libero avesse avuto un figlio da una serva e così, perché ricordiamoci che così come la società romana, anche la società medievale è sempre una società che prevede una netta distinzione giuridica tra chi è libero e chi non è libero. Nel caso che ho ricordato prima, ad esempio, la condizione giuridica che viene trasmessa è sempre la condizione della madre, quindi passa alla condizione materna, a meno che poi il padre non voglia procedere e liberare il figlio. Sì, sì. Allora, questo volume che vi presentiamo qui oggi è un manuale, quindi qualcosa che è stato scritto, pensato per un pubblico particolare, che è il pubblico degli studenti, e nasce anche dall'interazione, dall'esperienza, no, che tu hai quotidianamente con gli studenti, quindi quando l'hai scritto hai pensato all'interazione che hai avuto con loro. E poi, vabbè, uno dei modi per vedere se un libro ha successo è vedere quante edizioni fa. Questo ne ha due, quindi vuol dire che le cose sono andate abbastanza bene e che nella seconda poi sono state introdotte anche delle variazioni piuttosto interessanti. Allora, uno degli aspetti che mi piacerebbe che tu mettessi in luce è: cos'è che piace di più agli studenti del Medioevo e su cosa invece fanno più fatica ad avvicinarsi a questo approccio, insomma, che hai illustrato tu? Ma sicuramente gli aspetti che abbiamo appena ricordato adesso, quelli per esempio della storia della famiglia e della storia di genere, interessano molto, quindi sono degli argomenti che vedo, sono sempre delle tematiche che sono sempre partecipate a lezione, sempre con molte domande, con molti interventi, quindi sicuramente è uno degli aspetti che interessa di più. Poi dipende, perché appunto gli studenti arrivano molto spesso con delle loro appunto idee precostituite, quindi bisogna lavorare un po' sulla decostruzione. Poi ci sono quelli che arrivano con la passione per le crociate, che è uno dei temi classici che spinge il studente a frequentare un corso di storia medievale. Chiaramente è un tema anche che ha subito negli ultimi anni un profondo rinnovamento, quindi sono anche temi che si possono affrontare per comprendere anche la società contemporanea, perché anche in quel caso si creano dei presupposti poiché di lungo periodo. Quindi quello è un altro tema. In genere un altro tema che piace molto è il tema della storia comunale, perché è un tema della storia della partecipazione politica, dove si vedono le dinamiche appunto che stanno alla base di questa partecipazione. creazione attraverso modelli, anche in questo caso non così appunto oscurantisti come si penserebbe. Basti pensare all'operato dei podestà, che era sempre sottoposto poi a una sorta di valutazione della, quello che oggi chiameremmo il consiglio comunale, con anche un pagamento che veniva fatto solo a termine del servizio prestato, e quindi con la soddisfazione da parte di chi aveva nominato queste persone, che erano dei veri e propri protagonisti, dei veri e propri diciamo professionisti della politica, che poi si prestavano a guidare le città, cambiando anche da città a città. Quindi sono questi aspetti che mi sembra interessano di più, compreso poi naturalmente la peste nera, che è sempre un classico, successo. Questa potrebbe essere una buona idea anche oggi, no? Paghiamo i politici ex post, sì, se siamo contenti o meno, no? di quello che hanno fatto. E su questo mi avvio a concludere, per non abusare della vostra pazienza, proprio su quello che abbiamo detto essere un po' lo spirito, no, di questo ciclo di incontri, cioè la capacità di ogni storia di essere un po' storia contemporanea anche, no, di fornirci qualche strumento per leggere il presente. Allora, secondo te quali sono gli aspetti della ricerca medievale, anche magari facendo riferimento a quelli che sono i filoni di ricerca oggi più attuali, che possono darci qualche strumento importante per leggere meglio, no, per capire meglio il nostro presente? Beh, direi in primo luogo sicuramente le ricerche sulle identità dei popoli altomedievali, perché sono delle ricerche che ci fanno capire come le identità siano sempre identità culturali, fluide, che possono cambiare nel tempo, come sotto la stessa denominazione possiamo trovare realtà molto diverse, e poi ci fanno capire anche come lo scontro, l'interazione tra gruppi diversi che si danno denominazioni diverse a seconda dei contesti, possano rappresentare anche, non dico dei modelli, ma delle forme sicuramente di coesione che oggi forse in alcuni casi mancano. Quindi dietro anche in questo caso lo stereotipo delle invasioni barbariche, in realtà se noi togliamo questi due termini, vediamo che siamo di fronte a dei fenomeni migratori molto interessanti, che avvengono in forme molto diverse: migrazioni individuali, migrazioni collettive, migrazioni di famiglie, migrazioni militari con eserciti, che ci permettono forse di comprendere meglio anche il presente. Quindi questo è uno dei temi, secondo me, che maggiormente varrebbe la pena di approfondire. Benissimo, allora io ringrazierei Giuseppe Albertoni, intanto con un applauso, ringraziandolo per... per la disponibilità a rispondere a questa lunga serie di domande, però lascerò ovviamente spazio anche al pubblico, se ci sono domande e curiosità da parte vostra, insomma approfittiamone della possibilità di poterle porre a un esperto come Giuseppe. Allora, il libro è questo. Adesso per dirvi cosa ci potete trovare dentro, no? Perché alcune cose sono già state illustrate ovviamente nella nostra discussione, ma per dirvi appunto, primo capitolo dedicato a età medievale, spazio, tempo, periodizzazioni, quei problemi che abbiamo visto, poi narrare, stabilire e registrare le voci del Medioevo, come si racconta il Medioevo, come si racconta lui stesso e come è stato raccontato, poi far parlare gli oggetti, lo studio del Medioevo, l'archeologia, poi regni e impero, chiese, monasteri, religiosità, le città, signoria e feudalesimo, le regole del gioco della politica, la guerra, uomini, donne, parentela, affinità, libertà, servitù, forme di dipendenza personale. Insomma, c'è veramente una gamma di argomenti molto importanti, moneta e scambio, forme dell'identità politica, e poi un bellissimo capitolo sul diritto medievale che mi è piaciuto molto, molto interessante, anche dal quale si capiscono anche molte radici della nostra realtà giuridica, istituzionale e contemporanea. Prego, signore. Perché così registriamo, scusa. Il capitolo libertà e servitù, vorrei sapere in base a quali principi una donna, si accennava alla donna, venisse considerata serva, perché dice nata da una serva, ho capito, è la madre perché non aveva una famiglia riconosciuta, perché non aveva un patrimonio, perché non aveva zero istruzione. Ecco, questo mi incuriosisce, non ho mai pensato, cioè sapevo ovviamente delle proprietà di latifondi, eccetera, di questa condizione subordinata, che però il servo non fosse libero, o in che cosa consistesse la libertà, ecco, questo mi è oscuro. Sì. La ringrazio per la domanda. Diciamo, noi siamo di nuovo di fronte a due aspetti. Da un lato abbiamo le definizioni giuridiche. Le definizioni giuridiche distinguono nettamente i liberi dai servi. I servi sono persone prive di personalità giuridica, quindi sono persone che possono essere comprate e vendute come un oggetto. Perché in base alla loro nascita. Naturalmente noi non riusciamo a risalire, noi troviamo queste definizioni nelle leggi cosiddette leggi tra virgolette romano-barbariche, cioè le leggi che sono state promulgate quando sono stati costituiti i nuovi regni dal VI secolo in poi, e all'interno di queste leggi vengono precisate le tipologie giuridiche. E quindi viene detto se sei libero questo qua, se sei servo, ecco, e sappiamo questo. Sappiamo che la condizione di servo viene trasmessa dalla madre, sappiamo che però ogni uomo libero proprietario di servi ha la facoltà di emancipare, di liberare i propri servi se lo vuole fare. E poi a seconda delle tradizioni giuridiche ci sono anche tutta una serie di rituali che sono collegati a questo. Le donne quindi sono in questo, rientrano all'interno di questa situazione. E poi noi dalle fonti di altra tipologia, cioè non quelle di tipo giuridico, ma per esempio gli atti di compravendita o gli inventari di beni, eccetera, vediamo come in realtà abbiamo una forte gradazione di condizioni di libertà e una forte gradazione di condizioni di servitù. Quindi si può essere servi da un punto di vista giuridico, ma per esempio possedere anche un piccolo patrimonio, avere un minimo di azione personale, fino ad arrivare nel pieno medioevo, per esempio, ai casi dei ministeriali. I ministeriali sono servi da un punto di vista giuridico, ma appartengono all'elite sociale. E hanno castelli, hanno beni e quant'altro. Quindi le gradazioni poi possono essere molto molto diverse all'interno di questa distinzione di base. All'interno del mondo servile abbiamo poi un'ulteriore gradazione che è collegata ai termini che sono usati. Ricordiamoci che il termine schiavo è un'altra invenzione del Medioevo. Perché fu elaborato in seguito alla deportazione di persone di origine slava che venivano prese, venivano catturate e poi venivano vendute soprattutto sul mercato mediterraneo, in particolare venivano vendute al mondo musulmano, un aspetto che raramente si ricorda nei manuali, questo non l'abbiamo fatto nemmeno noi, devo confessarlo, è però l'esistenza di questo, prossima edizione, è questo commercio di persone dal mondo cristiano al mondo musulmano, che attraversa un po' tutto il Medioevo. E quindi da lì poi inizia a essere usato anche il termine sclavus, se no il termine che si usa nelle fonti è sempre il termine servus, oppure si usa il termine più generico di mancipium, e coloro che rientrano nella categoria di mancipia sono dei veri e propri schiavi, cioè sono le persone che vivono in gruppo, che non hanno una loro casa, che vivono all'interno di grandi magazzini, diremo noi oggi, assenza di una privacy, diciamo così, nella loro vita quotidiana. Quindi abbiamo questa forte gradazione. E naturalmente poi possiamo avere anche servi o serve anche che svolgono delle funzioni di particolare rilievo e quindi hanno anche un certo prestigio, diciamo, personale, che però non scalfisce la loro condizione giuridica, che può essere eliminata solo per atto del loro proprietario o della loro proprietaria, perché naturalmente le donne possono essere proprietarie di servi. Quindi ci possono essere donne, pensiamo per esempio anche alle grandi abbazie femminili che hanno poi schiere di servi maschi e femmine, perché anche gli enti ecclesiastici hanno i loro servi. Sì. Oppure è stato portato, è stato affermato per già queste popolazioni? Sì. No, no, sono tutte e due le cose assieme. Diciamo, in ambedue le organizzazioni sociali sono presenti schiavi, chiamiamoli così se vogliamo usare questo termine, o servi. E quindi abbiamo ambedue, abbiamo da un lato la tradizione romana che continua, dall'altro si innesta in questa tradizione, si innestano forme di organizzazione sociale e giuridica di queste nuove popolazioni che arrivano e le due cose si sovrappongono. Un elemento nuovo che viene introdotto, per esempio nel caso dei Longobardi, è quello di una condizione giuridica intermedia, che è quella degli Aldi, che sono persone che hanno una libertà parziale, diciamo, quindi possono avere alcuni possibilità di scambio di beni, di avere beni personali, però non hanno una piena personalità giuridica, quindi per esempio non possono presentarsi di fronte a un tribunale. Perché questo è uno degli elementi anche di discrimine tra libero e servo, cioè il servo non può accedere alla giustizia pubblica, al contrario invece di quello che può fare un libero, ma magari di condizione sociale bassissima, perché anche tra i liberi poi c'è una forte gradazione e quindi ci possono essere anche liberi di bassissima condizione sociale. Sì, certo. Sì. Sì, questo naturalmente è uno dei temi che poi vengono discussi molto spesso anche in alcuni trattati. C'è questo grosso problema che viene fatto, viene ricondotto poi a colpe individuali o collettive per dare giustificazione, però diciamo che nella realtà dei fatti tutti gli enti ecclesiastici hanno servi fino a tutto il XIV secolo, e quindi per tutto il periodo. Prego. Bene, prego. Buonasera. Adesso io volevo fare una domanda, non conoscendo la sua opera, non so se è attinente. Io volevo chiedere se lei ha tenuto conto degli effetti della climatologia in questo periodo. Cioè, come il discorso della peste nera, che è una cosa esterna, se anche la climatologia ha influito sulle strutture e sull'andamento. Adesso non so se... Sì, no, la ringrazio della domanda. E, diciamo, direttamente nel manuale questo aspetto non l'abbiamo trattato, però sicuramente è un tema molto importante e anche molto studiato, già a partire dagli anni 60 del secolo scorso. C'erano stati gli studi pionieristici di Emmanuel Leroy Ladurie e di altri storici, e vengono studiati, sono stati studiati le carote glaciali dei ghiacciai per analizzare il deposito di pollini e a partire da quelli cercare di capire le variazioni climatiche, così come vengono studiati i cerchi meristematici dei tronchi, in particolare dei tronchi con cui sono state costruite le travi di alcune chiese, quindi tronchi che sono databili nel momento in cui furono tagliati. Quindi sì, quello che si può dire in sintesi è una variazione climatica che attraversa il Medioevo, con una temperatura probabilmente più bassa nell'età alto medievale, poi con un innalzamento nel pieno Medioevo, anche se insomma poi non tutte le posizioni sono simili, però diciamo vari dati ci permettono di ricostruire questo aspetto, quindi con una temperatura media probabilmente, naturalmente siamo in una fase in cui non vengono registrate temperature, non abbiamo nessun dato numerico, quindi abbiamo grossi problemi a avere qualcosa di preciso, però abbiamo per esempio le cronache che ci parlano di delle inondazioni, del freddo, del caldo, eccetera, quindi da lì riusciamo un po' a mettere insieme questi elementi con elementi su base più, possiamo dire, oggettiva, appunto quelli tratti dalla ricerca archeologica, e quindi sappiamo che nei secoli centrali del Medioevo abbiamo un innalzamento delle temperature medie, e con poi una diminuzione a partire grosso modo del XV secolo in poi, quando inizia quella che viene chiamata la piccola età glaciale, che dura fino alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, quando poi abbiamo di nuovo un innalzamento. Quindi sicuramente c'è questo aspetto ed è molto importante. Se posso aggiungere una cosa, proprio un mese fa qui a Bolzano si è tenuto un convegno importante riservato a giovani storiche e storici europei proprio sui temi di storia ambientale, e questa questione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle strutture economiche e sociali anche in età medievale è stata una questione molto, molto dibattuta, perché un elemento dobbiamo sempre tener conto è il fatto che quelle società avevano una capacità tecnologica nell'affrontare questi mutamenti molto inferiore rispetto alle nostre, quindi l'impatto è chiaramente un impatto decisamente più importante, decisamente più forte. Pensiamo alle attività agricole, alle attività di allevamento, insomma, no? E c'è questa storia, insomma, che si raccontava, per esempio, di una su un ghiacciaio nella zona del Monte Bianco, dove si è costruita una cappella per impedire al ghiacciaio di avanzare, no? Perché avrebbe occupato le aree che venivano tenute ad allevamento, che erano una ricchezza importante per le popolazioni che vivevano a questa cosa. Ecco, bene, quella cappella è stata spostata 7 volte, insomma, questa Madonna Pellegrina veniva spostata avanti, e poi a un certo punto però è rimasta lì perché il ghiacciaio ha cominciato a ritirarsi, insomma, ed è la testimonianza di quella vicenda. Bene. Sì, no, scusi. Sì. Sì, no, io ho fatto questa domanda perché chiaramente l'attività principale è l'agricoltura. L'agricoltura soggiace a questi cambiamenti e quindi da lì si può derivare o carestie o un benessere migliore, e quindi da lì migrazioni, per quello intendevo, insomma, la questione. Insomma. Sì, sì, naturalmente tenendo sempre conto che appunto noi non riusciamo a avere dei dati numerici se non per dalla XIII secolo in poi. Ecco, per il periodo precedente non riusciamo mai a avere dei dati numerici, però abbiamo dei dati molto precisi sulle colture, quindi chiaramente possiamo vedere il tipo di colture. Poi la presenza di certe colture in zone inaspettate non sempre è dovuto all'azione climatica. Per esempio c'è il grosso problema della viticoltura, viticoltura che veniva condotta anche in zone che oggi noi riterremmo non adatte, ma tutto è collegato anche alla necessità di avere il vino sia per la liturgia sia per l'alimentazione di fronte all'impossibilità. Ricordiamoci che l'età medievale è un'età in cui si beve poca acqua perché l'acqua è molto pericolosa, e quindi si deve cercare di bere il vino più possibile, diciamo, anche con la qualità molto bassa. Quindi certo dobbiamo sempre tenere conto quanto la presenza di determinati prodotti sia legata ad una possiamo dire ad un contesto climatico, e quanto invece sia legata a necessità che spingono a colture di bassa qualità che però vengono incontro a delle esigenze primarie. Bene, allora mi sembra di vedere che non ci siano altre domande. Giuseppe ci ha dato una serie di spunti molto interessanti su cui riflettere, si è inserito pienamente nello spirito, insomma, di questo di questo ciclo di incontri. Io vorrei chiudere qui ringraziando in particolare Karin Franchi e Patrick Uru per il sostegno che hanno dato a questa iniziativa, a tutti voi per la pazienza che avete avuto essendo presenti qui oggi, ricordandovi il prossimo incontro, appunto il 20 novembre, saremo qui di nuovo con Maurizio Giangiulio, che è uno degli esperti di storia greca più importante in Italia, che presenterà una relazione a titolo I Greci e noi, dove presenterà questo suo volume Introduzione alla storia greca, che fa parte insomma della stessa collana di introduzioni per la casa editrice Il Mulino di Bologna. Quindi il 20 novembre di nuovo sempre qui. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.